on bended knee, cutting cane for her family. I see men at the water's side, casting nets at the surging tide. Pieggia di spocca na swojej drodze kogoś to pna niosąc w oczach smutek i lęk, powiedz, że miłość jest wszystkim tym, czego mu brak, co doda sił, doda sił. Sbagliamo strade nuovi, cieli ci tentano, dove vai? Il sogno tuo dov'è? Le folle sì ti seguono ovunque vai, e lasci i segni tuoi e la tua verità. Ma dentro vuoto sei senza amor, senza amor. Chi corre troppo non se ne accorge di un tesoro e crede che abbia quel che vuole. E se riesci a fermarti ancora un po' e domandarti ma che importanza la corsa che per noi persa è già, persa è già. Ma sei fortunato se in questa corsa confidi con un amore sognato già. Forte con tutto il cuore, tenta le amor, non tornerà. Sei fortunato se all'improvviso senti un amore più profondo del mare blu. Seguilo che un amor, tale amor, non tornerà mai più. 接下来请欣赏安德烈·博切利演唱的一组意大利民歌。 Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande.